La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 20 febbraio 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questo sabato parleremo di medicina, o meglio parleremo di genetica. Parleremo insomma di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, e ne parleremo col professor Antonio Orlacchio, direttore del laboratorio di neurogenetica dell'IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma e docente di neurologia presso il Dipartimento di Neuroscienze di Roma Tor Vergata. Buongiorno professor Orlacchio. Buongiorno. Professore Orlacchio, all'inizio noi abbiamo queste 100 parole per introdurre la trasmissione e quindi in 100 parole le chiedo di descrivere, se possiamo, che cos'è la sclerosi laterale amiotrofica. La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa letale che colpisce progressivamente i motoneuroni, cioè le cellule del sistema nervoso che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. Professor Orlacchio, in questa trasmissione parleremo di SLA per una ricerca pubblicata qualche giorno fa su Brain, di cui lei è appunto il primo autore. Nella prima parte parleremo di SLA in generale, quindi che cos'è la sclerosi laterale amiotrofica, mentre nella seconda parte ci concentreremo essenzialmente su questa ricerca. Adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio e poi continuiamo con questa nostra chiacchierata. Oh, what I plan to do. I know it's strange, believe me. But that's my attitude. Yeah. don't know anything about ALS, better known as Lou Gehrig's disease, know this. It attacks your body. Eventually, your body will stop working. Your legs, arms, your lungs, but your mind still works. You know what's coming. Professor Orlacchio, siamo ritornati in studio per parlare di sclerosi laterale amiotrofica. All'inizio le ho chiesto le 100 parole per descrivere la SLA. Se potessimo essere un pochino più estesi, effettivamente, dal punto di vista genetico, che cos'è la sclerosi laterale amiotrofica? La sclerosi laterale amiotrofica in circa il 10% dei casi è ereditario, e cioè su base genetica, anche se nella maggior parte dei casi la malattia insorge in modo sporadico senza che vengano coinvolti altri membri della famiglia. Colpisce generalmente gli adulti dopo i 40-50 anni, benché ne esista una forma anche giovanile. A loro volta esistono due tipi di sclerosi laterale amiotrofica familiare su base genetica, uno a trasmissione autosomica dominante ed uno a trasmissione autosomica recessiva. Nel primo caso una persona affetta al 50% di probabilità di trasmettere la malattia a ciascuno dei propri figli. Nel secondo caso invece occorre ereditare due copie alterate del gene di entrambi i genitori, che sono in genere portatori sani, per poter manifestare la malattia. L'aspettativa di vita dopo la diagnosi di questa malattia è di circa 3-10 anni, ma nelle forme di esordio giovanile può arrivare anche a 40-50 anni. Professor Orlacchio, all'inizio lei ha parlato di motoneuroni e lei in questo momento ha citato un'altra parola, cioè autosomica. Che cosa vuol dire autosomica e che cosa sono i motoneuroni? Allora, i motoneuroni sono i cosiddetti neuroni di moto, cioè che impartiscono ai muscoli il comando di movimento, e nella sclerosi laterale amiotrofica viene interessato sia al primo motoneurone a livello della corteccia cerebrale, sia al secondo motoneurone, cioè il motoneurone periferico, a livello del tronco encefalico e del midollo spinale. Senta, nel corso degli anni le conoscenze sulla sclerosi laterale amiotrofica saranno ovviamente aumentate. Cosa si sapeva all'inizio e cosa si sa oggi che permette, come dire, una vita più agiata ai malati di SLA? Beh, sicuramente la ricerca di base è stata ed è fondamentale per lo sviluppo di nuove terapie, soprattutto molecolari, per la cura della malattia. E, tenendo in considerazione che attualmente si pensa che un danno di tipo eccitotossico dovuto ad un eccesso di glutammato sia alla base della degenerazione dei motoneuroni. Ad esempio, in questo caso la ricerca di base è stata molto importante perché vi sono alcuni farmaci, mi viene in mente il riluzolo, che si pensa possa ridurre il danno ai motoneuroni appunto riducendo il rilascio di glutammato. Gli studi genetici ci porteranno all'identificazione e ci stanno portando all'identificazione di nuovi geni causa della sclerosi laterale amiotrofica e, o delle sue varianti, e l'identificazione di questi geni ci permetterà di capire quali sono a sua volta le proteine malate involute in questa malattia, che potrà quindi rappresentare un bersaglio molecolare per lo sviluppo di nuovi farmaci. Professor Orlacchio, la sclerosi laterale amiotrofica può essere definita come una malattia ereditaria anche se solo una piccola parte dell'insorgenza della SLA è di tipo ereditario? Può essere considerata una malattia ereditaria in quel 10% dei casi in cui sappiamo che vi è una familiarità per la trasmissione della malattia. Quindi diciamo non dal punto di vista generale, ma solamente nel particolare. Soltanto nel particolare, in quella porzione specifica di casi che hanno questa malattia. Io, professor Orlacchio, le ho fatto questa domanda proprio perché nella seconda parte della trasmissione parleremo della ricerca pubblicata appunto su Brain, in cui si parla appunto di una proteina, la spataxina, che sembra essere responsabile almeno di una forma di SLA. Adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio e poi parleremo appunto della ricerca pubblicata a fine gennaio sulla rivista Brain. dans ma guérite grise, je croise la France qui se barre sans cœur dans les bouchons, ça les électrise. Je vis des trucs incroyables, quoi écrire un best-seller, alors je me mets à ça pendant qu'ils payent, ils accélèrent. Pas plus tard qu'hier, le sosie de Michel Drucker arrosait copieusement ses gosses sur la banquette arrière. De nombreux aucun sentier de baffes à faire trembler ses chers petits devant mon air. Incrédule, il le conclut sans un scrupule. Je m'en fous, c'est pas les miens qui me dit. Je m'en fous, c'est pas les miens. Je m'en fous, c'est pas les miens qui me dit. Je m'en fous, c'est pas les miens. Avoir passé les pros du klaxon qui sont comme autant de larrons en foire. Moi je me dis à quoi bon ce sera. Bonjour, merci, au revoir. Bonjour, merci, au revoir. Bonjour, merci, au revoir. Formalité de plus à expédier d'ailleurs, j'en demande pas plus. Trois mots j'ai oublié, noyé dans le flot continu de vieux tacos exigus. J'ai senti la main de Dieu en serrant celle d'un fou furieux, chef d'une bande pour qui la route est un show dont ils sont les stars, qui transcendent le tuning et l'élève au rendard. De meeting en réunion, 210 dB de techno à fond, petite bébé, gros cylindré, je suis adopté. Pour mon 30e anniversaire, j'ai eu les clés d'un bolide blanc et le Mad Max peint sur les portières me soutient inconsciemment. Maintenant tu crains plus rien qui me dit, maintenant tu crains plus rien. Maintenant tu crains plus rien qui me dit, maintenant tu crains plus rien. Avoir passé les pros du klaxon qui sont comme autant de larrons en foire. Moi je me dis à quoi bon ce sera. Bonjour, merci, au revoir. Bonjour, merci, au revoir. Bonjour, merci, au revoir. Bentornati cari radioascoltatori, abbiamo ascoltato un pochino di musica, adesso siamo di nuovo insieme al professor Antonio Arlacchio, col quale stiamo parlando di sclerosi laterale amiotrofica. Il 28 gennaio 2010 è stata pubblicata su Brain appunto una ricerca che parlava appunto di sclerosi laterale amiotrofica e si parlava appunto di una mutazione di una proteina, la spataxina, che sembra essere responsabile almeno di una dei tipi di insorgenza di sclerosi laterale amiotrofica. Prima di tutto analizziamo una cosa: la ricerca è stata condotta su 25 famiglie, ma queste 25 famiglie non sono residenti tutte per esempio in Italia, ma appartengono a tutto il mondo. Questa mi sembra una delle cose da sottolineare di più. Beh, noi abbiamo raccolto e abbiamo collezionato il più ampio numero mondiale di famiglie con una variante specifica di sclerosi laterale amiotrofica, cioè la forma autosomica recessiva ad esordio giovanile e con lunga sopravvivenza. Abbiamo raccolto famiglie che provengono da tutto il mondo, infatti oltre a pazienti italiani sono stati reclutati malati di origine turca, brasiliana, canadese e giapponese. E dal punto di vista della ricerca, cosa vuol dire aver utilizzato 25 famiglie provenienti da parti diverse del mondo piuttosto che 25 famiglie, che ne so, provenienti da Canicattì? Vuol dire confermare il dato ottenuto in una determinata popolazione in altre popolazioni e quindi confermare la distribuzione mondiale del dato ottenuto. E proprio a proposito di dati, nel vostro lavoro si parla di SPG11, ma effettivamente che cos'è SPG11? SPG11 è un gene che era stato precedentemente trovato mutato in un'altra patologia neurodegenerativa, che è la paraplegia spastica ereditaria con assottigliamento del corpo calloso. Quindi noi, osservando le caratteristiche cliniche delle forme più rare di SLA, esordio giovanile di cui io parlavo in precedenza, il gene SPG11 è un gene che si trova sul cromosoma 15 e contiene le informazioni per la spataxina, che è una proteina fondamentale per la sopravvivenza dei motoneuroni, e quindi se questa proteina risulta essere malata, cioè degenera, va a provocare l'effetto malattia, cioè la sclerosi laterale amiotrofica nel nostro caso. Professor Lacchio, nel fuori onda abbiamo parlato molto del possibile link che c'è con la paraplegia spastica ereditaria. Ora vorrei che lo introducesse lei, perché la mutazione della spataxina, o meglio del gene SPCG11, sembra essere comune sia alla paraplegia spastica ereditaria sia a questa forma di SLA. Questo che cosa potrebbe significare? Il nostro studio è partito osservando le caratteristiche cliniche delle forme più rare di SLA, di cui abbiamo accennato, l'esordio giovanile, che sono circa il 5% dei casi, e abbiamo appunto ipotizzato che si potesse trattare di una forma con peculiarità genetiche sovrapponibili a quelle di altre malattie neurologiche. Infatti i loro sintomi clinici, l'età di esordio e la progressione della malattia erano molto simili a quelli riscontrati in pazienti affetti da un'altra patologia neurodegenerativa, quella a cui lei accennava, che è la paraplegia spastica ereditaria con assottigliamento del corpo calloso. Questa malattia è dovuta a difetti nel gene SPG11, che si trova sul cromosoma 15 e contiene le informazioni per la spataxina. Quindi abbiamo analizzato dettagliatamente il DNA dei pazienti e confermato che appunto anche i pazienti da noi collezionati con questa forma di SLA avevano un difetto genetico proprio a carico del gene della spataxina, che causa anche questa forma di paraplegia spastica ereditaria. Per questo il gene sarà d'ora in poi classificato con un doppio nome, cioè non solo SPG11 ma anche ALS5, a riprova di come un suo malfunzionamento possa essere responsabile di entrambe le malattie genetiche. Senta, giusto per chiarire, giusto perché molti di noi potrebbero non saperlo, chi viene prima, l'uovo o la gallina? Cioè chi viene prima, SPG11 o spataxina? Viene prima il gene, dopodiché viene la proteina mutata. Senta, io sto spulciando la vostra ricerca su Brain e sono finito per caso, ma anche non per caso, su pagina 3. E a pagina 3 c'è una immagine a quasi tutta pagina in cui si analizza appunto la mutazione di questo gene. Se lei potesse essere dettagliato, come mai questo gene è mutato in maniera diversa, eppure la mutazione diversa in ogni gene sembra essere riconducibile, come dire, a un'unica insorgenza di questa malattia? Difetti genetici diversi sullo stesso gene ci fanno ipotizzare che non vi sia un effetto fondatore, cioè che una stessa mutazione non sia tipica di una determinata popolazione e la presenza di diverse mutazioni genetiche sullo stesso gene ci porta altresì a poter dimostrare in modo inequivocabile che il gene malato, questa forma di sclerosi laterale amiotrofica, oltre che della malattia neurodegenerativa di cui abbiamo citato in precedenza, cioè la paraplegia spastica ereditaria con assottigliamento del corpo calloso. Professor Lacchio, le voglio fare una delle ultime domande prima di concludere la trasmissione. Io guardo un pochino i nomi pubblicati su Brain, che sono gli autori di questa ricerca, e vedo per esempio lei, Antonio Orlacchio, la dottoressa Carla Babalini, Antonella Borreca, Clarice Patrono. Quanto tempo ci avete messo per, come dire, collezionare tutti questi dati e poi pubblicare questa ricerca? Perché mi immagino che collezionare 25 famiglie non sia stato un lavoro che è durato qualche annetto. No, beh, è un lavoro che si è svolto nel corso degli anni, più o meno, se dovessi dire un tempo, un periodo, posso dire una decina d'anni, però noi che abbiamo collaborato allo sviluppo di questo studio rimaniamo molto orgogliosi, soprattutto in relazione a tutto il lavoro che c'è stato dietro, appunto per un periodo di tempo così lungo. E così, se dovessi dire una data, è un lavoro iniziato circa 10 anni fa, è stata sicuramente una cosa molto complessa e molto faticosa riuscire a organizzare, a mettere su una casistica del genere e soprattutto ben caratterizzata clinicamente con dei criteri di diagnosi omogenei tra tutti i vari centri che hanno partecipato allo studio, però sicuramente è motivo d'orgoglio per noi che abbiamo fatto questo studio. Siete soddisfatti per ora del vostro lavoro o volete ampliare, come dire, lo spettro delle famiglie da analizzare? Sicuramente siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del risultato raggiunto. Per quanto riguarda il voler allargare lo studio, sicuramente già successivamente alla pubblicazione dei dati abbiamo e stiamo continuando a collezionare famiglie anche da altre parti del mondo, proprio per poter confermare sempre di più ed allargare sempre di più il dato ottenuto. Professor Orlacchio, intanto la ringrazio per aver partecipato a Caccia al Fotone, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia al Fotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è come al solito sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professor Orlacchio. Grazie di avermi invitato, grazie.